C'è qualcuno qua? CQ canale 10. Avanti, chi è? CQ canale 10, c'è qualcuno in ascolto? Canale 10, c'è qualcuno qua? Attenzione 10. Oh, ciao già, buonasera. Va bene, Natalia. Niente di fatto. Nulla? No, mi hanno fatto tutte le cose stamattina, ma non mi hanno chiamato. E sarà la prossima, adesso dovrei essere nella prossima volta, vai. E appena si libera la sala con l'equipe te lo fanno, già ti chiamano subito, non è che sentano, no? Non è questione di sale, è questione che l'equipe di questa qua viene una volta al mese, viene da fuori, sta una settimana e poi se ne parte di nuovo, e poi nel prossimo mese non c'è. Dopo questa equipe opera l'altra equipe di Sassari. Ho capito, fanno una settimana, cioè questa equipe viene solo una volta, là, diciamo così. Sì, una volta al mese, sta una settimana e poi riparte, capito? Ce n'erano tanti, e stamattina io pensavo, perché questo signore ha detto che aveva il coronavirus pochi giorni fa e l'hanno scartato, e l'hanno fatto ritornare oggi. Ho detto, magari, se c'era ancora quello lì, il coronavirus, che invece deve essere anche guarito. Capo, certo che è un giramento di balli. E poi Natale aveva fatto amicizia con un tipo di Valleduria, siamo andati anche a prenderci caffè insieme, un tipo in gamba, e stavamo sperando che ci mettessero nella stessa camera, dice, così almeno ci facciamo qualche chiacchierata, ci conosciamo già, capito? Invece quello di Valleduria l'hanno chiamato e a me no. E vuol dire Nani, un bel di che storie, mamma mia. Quelli ce ne sono un bel, hanno chiamati Nani un bel da compreso. Ma lo sai che adesso hanno ridotto tutto, hanno ridotto il taglio, hanno ridotto i giorni di degenza, dopo 5 giorni ti mandano a casa. Ehi, più va e più si specializzano questi qui, fanno passi da gigante, più ne fanno e più diventano bravi, hai capito? Gabba gabba, speratemi. Altra, dimmi che ti ho mandato un link sulla storia dell'operazione, ti ho mandato, su quello che fanno. Niente, è uscito anche su internet tutto qua, c'è il filmato, tutto qua. Io ho capito. Dopo già me lo guardo. Uiaia. Ma cosa vuoi? È un macello. Speriamo che ti chiamino in fretta, vuol dire che non è un bel avvà. Eia, se non fosse stato buono il tampone mi avrebbero chiamato, capito? Invece non mi hanno chiamato per nulla. Gli ho mandato anche un messaggio, ditemi se me lo fate o no, perché io devo anche avvisare, mi devono accompagnare. E niente, no, non mi ha risposto. Non mi rispondo al telefono, non rispondo, quindi cosa vai? E infatti. a chi comanda nei riduttori, quando vedi che ne va tu soltanto, allora di giammane quando si ripareggia il gruppo, zitto un attimo, mi stanno suonando. Sì, ma Natalia, a me mi avevano messo con urgenza, la dottoressa Sara mi aveva messo con urgenza, quindi a me mi avrebbe dovuto chiamare prima degli altri, invece mi hanno buttato con necrosi, con liquido, eccetera, eccetera, mi avrebbe dovuto chiamare per primo, non per ultimo. Sono tornato. Gianni. Gianni. Oh, dimmi. Mi avevano suonato alla porta. Oh, signor, che la concetta era. Te l'ho detto, forse non mi hai sentito, perché stavo abbaiando quel cavolo del cane. Come sente a concetta si mette a abbaiare. Riconosce la padrona. Sì, è ubbido. È stata a dubitare addosso mentre già becchiava Ianna. Scappava la pattuglia, però di loro si sono gomarando che lascia a casa. Non posso stare in nessuna posizione e subito che torna il dolore. Basta un millimetro che ti muovi. Aspetta il telefono. Il telefono? Gianni? Oh, dimmi. Era mio fratello che è andato da un dentista che l'ho mandato io, perché gli avevano fatto un lavoro che faceva lo schifo. Ma c'ha Maddu. Chi è Angelo? Sì, Angelo, allora. Cosa si è fatto denti fissi? Gli avevano fatto un lavoraccio, gli avevano fatto, poveraccio, non podia né mangiare né nuda. E allora l'ha mandato da uno che conoscevo io e pare che il bravaglio gli aveva così a vendere. Ma cosa ha visto? È un artista che l'ha già mandato io. Ma ha fatto la dentiera mobile o fissa? No, c'hai così fissi, Angelo. Ah, ho capito, dai. C'aveva già i perni e quindi ha dovuto mettere solo la corona. Ma l'ha fatta da capo, ma cosa che su la viene fatto? Era un travagliaccio. Oh, via. Si va a risparmiare e poi gli fanno cagate. Guarda, se mi dice mia mamma prima attivo da un dentista bravo veramente, da Basente, che è molto bravo. A me mi ha fatto dei lavori eccezionali. Sono rinata. Io dico, dal dentista non bisogna mai andarci, perché la prima cosa non sono buoni a prendere l'entonte. Ma ce l'ha tolto il dente, Angelo? Quello lì sì. L'unico che lo fa come si deve è il tecnico, non ce n'è altro. Pedro. Lo denticcia non è buono, manca a pigliare impronte e si fa una gaggata sempre. Come è successo? Perché mio cugino era meccanico dentista e io lo so da quello. Dei dottori non bisogna mai fidarsi. Scusa la storia, che stavo rispondendo a Manuela, un messaggio. Io che? Via. Dico una gallata di dolori, mamma mia. E dice, ti sono rivenuti, mi ha scritto Manuela. Ma non mi sono mai passati, lo fatti chi c'è? Rufè, che tu hai visto di dolori, hai visto, Che brutto è quello. Vabbè. Vabbè. In un modo o nell'altro già si risolverà, dai. Appena si ribareggia l'equipe che dimettono i pazienti che hanno, che si liberano i diritti, c'è anche quello da contare, che come si libera qualche letto, ti ricoverano subito, ti rubazzini. Aspetta che domani dovranno venire a prendermi che avviso di non passare. Io sì. Eccomi qua. Fatto? Sì, perché domani dovranno venire a prendere per portarmi all'ospedale, no? E niente, l'ho avvisato di non passare. Infatti, se no passano in vano. Eppure avevo avvisato anche l'ambulanza, perché non sapevo se c'era nessuno che mi accompagnava e ho dato la disdetta dopo. Infatti, cazzo di... Vuol dire che non hanno letti liberi questi qui. E poi vanno in confronto buru. Ma l'hanno avvisato di non andare. Già lo chiamano per telefono quando lo vogliono. Ah, sì. Come hanno fatto a me gli fanno, uguale. sì, ma almeno la telefonare per sì o per no, capito? Invece ti lasciano così su chi va là, non hai dormito dopo pranzo, niente, poi pensato che se mi telefonava magari non sentivo. E quindi sono stato in tensione per niente. Fammi una telefonata e dimmi, guarda che non ce la facciamo, sarà per la prossima volta, la chiamiamo noi, invece ti lasciano su chi va là, non sai se ti chiamano loro, non sai se devi tornare, non sai buh. Giacchi Giannani Eddi, ti telefonai Gianni e ti dici mi deve essere a tal ora qua, perché lì è il primo, il secondo, Giannani Eddi. Ma mi devo andare il tempo, perché io devo stare 2 giorni senza mettere Formina, non posso veramente Formina per 2 giorni, quindi devo chiamarmi in tempo di modo che io mi regoli e non la prenda. Ma loro già lo sanno e ti telefonano in tempo. Se tu devi cadere ti telefoni già nel 3 di prima e ti dici mi che venga tal giorno e così tu non la prendi, come hanno fatto a me per la via Spirina. Io sono dovuto stare 4 giorni senza bigliarmi. Perché. Non vai a mangiare. Perché quella lì è per il sangue e non va bene. Non quindi te la sospendono. Hanno delle fondamentali mio. Infatti, bisogna che mi avvisino in tempo. Va bene che ce l'hanno scritto perché me l'avete anche loro, si ricordi di non prendere la metformina per 2 giorni. E vuol dire che è contraria. Come c'è la cardia aspirina. A me 4 lì mi hanno battezzato senza migliarla. Devi l'hanno insegnato, non sono macchino. No, 2 giorni da me. E vabbè. Adesso atterreranno i primi, poi come si liberano quelli, chiamano per gli altri. Infatti. Mi avevano fatto comprare le calze antitrombosi a me. E insomma, adesso li sono proprio addestrati a dovere. Anche a me le hanno fatte comprare, antitrombo. Anche il bagno schiuma antibatterico. Loro cazzo, giustamente. Avvilla, e ti già Manielli, a chi ti tieni conto che devi stare 2 dì che non la devi bigliare questa cosa. Ti dici in buru quando dopo lei già ne sei il primo, il secondo, tutto. Mi dispiace anche perché avevo fatto amicizia con quello di Valleluglia, se magari eravamo in camera insieme ci saremmo fatti compagnia, invece un ragazzo. Vabbè, la carogna sempre a me tocca. Vuol dire, hanno esoperato il numero e giustamente se non hanno il letto dove ricoverarti, perché va insieme al letto che devono fare l'operazione, capito? Vedi, giustamente, se non hanno il letto come fanno a ricoverarti? Vedi che andavano in letto libero e la sala operatoria libera, tutti già, ma ne travasini subito, senza città nuda. Vabbè. Vabbè, si la bida luce. Quando mi vuole chiamare mi chiama, e tanto sto soffrendo la palla dell'inferno io, Uria. Già lo sa, il dottore già lo sa che stai soffrendo, lo sa. Non è che non lo sappiano. Giarusà, non è che la prova due, che si sei provendi tu, però lo sa che dai pazienti cosa state soffrendo, capito? Vabbè, cosa si vuole fare, Natalia, cosa si vuole fare? Tanto che Buonarano ha operato, assai dura che operazione. Adesso magari ci passerà un altro mese. Cazzo, un altro mese. Ti chiamano subito già, come finiscono che liberano qualcuno ti chiamano subito. Questo che fa questo dottore qua, quanto c'è scritto, la degenza dura 5 giorni, dopo 5 giorni ti fanno fare 15 giorni di riabilitazione e poi sei a posto. Cazzo, no, è meglio che sia così. Comunque ti chiamano, non è che ti butti la gara un altro mese, no, in Chivi, è di proteggiarmi subito, in Chivi sono lei, pari soffrendi la cosa. E poi adesso che c'è il coronavirus, cercano di evacuare subito i pazienti, non li trattengono più di tanto? Ah no no, non è che ti pagano in chivi, no. Oh, in chivi come anche tu sei guarito, cazzo, vada via, subito. Vabbè, a me mi aveva detto il dottore dell'ospedale civile, quando mi ha visto camminare, siccome lei è bravo, noi le persone brave le mandiamo via subito. Non lo dico a me, già lo so, così tu manzano mi hanno operato quando va più l'ernia e la sera me ne sono andato. E quello quando mi hanno operato al menisco la stessa cosa, me l'hanno fatto in due ospedali. Subito. Catta, hanno esitato a vedersi, urinavo. Hanno visto che ho urinato e mi hanno mandato via subito, perché se non urini non ti mandano via, eh. Cappa cappa, e via. Attali, cosa si vuole fare? Cosa si vuole fare? Bisogna aspettare, se non va in cuzzi, anche chi si vuole in cuzzi. Quando si è fatta male in era che si è rotta il menisco. Non il malleolo, non il menisco. E hanno dovuto mettere i ferri. E la stavano lasciando lì senza operare niente. Ho visto con la porta a una persona che lavorava lì in ospedale, in un giorno l'hanno preso e operato. E infatti. Pure in cozzi, Vivone. Allora, che ora è finito di mangiare? 7:30. Adesso ho finito, 7:30. 8:30. Alle 9:30. Cosa ti devi misurare? La vigilia? No, me la so con misura due volte alla settimana, ha detto l'infermiera, perché mi hanno diminuito le strisce, capito? Mi posso la lesione e mezzicocchi, si rabbiglia in come ti possa mai, non me ne misuro nemmeno. Sì, ma come fai tu a farti l'iniezione se non sai a quanto ce l'hai, Natale? Scusami, se mi intrometto, ma tu prima devi misurarla e sapere a quanto ce l'hai la glicemia, in base a quello fai le unità che devi fare. Ciao. Io ne faccio sempre 6 e non sgarro da lì, sempre 6 unità la notte. Me la misuravo prima, però va. Mi ha detto due volte alla settimana, l'infermiera mi ha detto a misurarmela e boh. Mi hanno dato 2 scatole da 25 e boh. Quando prima lo misuravo 125 e me ne misuravo. Quelle lì. Non ho capito. Se ti stai misurando la glicemia e... 2 volte alla settimana me la devo misurare, così mi ha detto che ci sono quelli. Anche Luca Flipper mi ha detto, se la misura ogni tanto lui la glicemia. Non è che la glicemia sia sempre la stessa, e cambia, secondo quello che mangi, in base a quello che mangi cambia. Se tu ne fai 12, magari se mangi poco, tu magari mangi qualche cosa in più, non bastano più 12, ce ne voglio 15, 20, dipende. Dipende da quello che mangi sempre, anche io sono così. Secondo quello che mangio, mi sale, se mangio la pizza, ma sale in picco, va di. Se non mangio la pizza ce l'ho sempre regolare. A me più di tanto non mi sale già. Poi è quella della notte mica che devo fare e basta. Perché io non ne sto facendo più 4 come prima, ne sto facendo solo una, chi sa di la notte. E ne faccio 6, se da ordine non me ne faccio di più, no. Poi a me più di tanto non mazza. A me non è mai stata. 300 non mi è salita a meno. Ma per farne sera avrei fatto eliminare direttamente, ti sei regolato tu, per farne sera lì. Sì, cosa so, basta che ti regoli con la roba da mangiare e non devi farne niente. E me la voleva eliminare anche quella della notte lì, però per non darmi un'altra pastiglia, siccome ho avuto la pancreatite, non si è filata e me l'ha lasciata, quella lì solo per la notte. Ma voi sì, sono una cazzata, confronta a chissà che vi vedi voi. E infatti, vabbè. E già lo sanno loro cosa fare. Già lo credo. Però è strano. Ma tu se c'è da aumentarla o cosa, me lo dirà lì quando a dicembre vado a fare la visita, no? E poi non si sa mai che mi ne aggavi a bulle e non mi lineggia un cavolo. Come vede che ce l'ho sempre regolare. Magari no, non me ne ordina neanche mi di insulina per la notte. Quando ti vede? Se non ti vede... a me il primo periodo che stavo facendo l'insulina sono andato al centro diabetico perché mi è salita più di tanto, e l'ho detto, non c'era il mio dottore, c'era la dottoressa Alca, mi ha detto lei non deve venire qua, se la deve gestire lei la cosa, deve guardare quanto c'ha la glicemia e in base a quello si fa l'insulina, se vede che è più alta se ne fa 5 cc in più risolve il problema, capito? E detto vabbè, io non lo sapevo, sono all'inizio, dottore, e vabbè, adesso glielo sto dicendo, non ci venga più qua perché noi abbiamo altro da fare, non possiamo stare a perdere tempo, e vabbè, pure un magistro è già, io lo sapevo che ti dica. Chi è quello? Vabbè, vediamo come fa. Io dalla volta mi regolo, so quanto la devo fare, se ce l'ho per dire a quel tanto lì, ne devo fare 30, se non ne devo fare 22, se non ne devo fare 20, dipende. Che babbo non si tocca. Guai a te. Allora, il diuretico non le devi prendere, no. Da me, infatti, tutte le medicine. Alleluia, mamma mia. E cosa vuoi dire? Ma vediamo cosa mi dici. Perché io mi dico, come mai non la sta misurando come gli ho detto io? No, lei la, ha perché detto. Lei mi ha tolto le strisce e l'infermiera mi ha detto qua a misurarmi le due volte alla settimana. Solo. Ma infatti tu già ce l'hai bassa, vai, lo puoi fare. Non è che ti sale più di tanto a te, quindi. Io guarda, fossi stato in te avrei preferito fare più dieta e eliminare tutto quanto. Te lo tolgo perché anche le pastiglie e cose te le tolgo perché già tu prendi quella per il cuore, eccetera, eccetera. Quindi se ne diminuisci qualcheduna non fa male. A me me ne hanno tolto le pastiglie. Vabbè, ma io sì, addirittura ero andato di mare con la pressione e mi hanno aggiunto. A chi mi ne via mica la duna e mi si è stata la pressione. Hai capito? E quindi li devo ubriachi, se non venuto arrivare. A me per dire mi hanno tolto il lobbivo me l'hanno tolto, la metformina mi hanno dato Xigdo, che è una pastiglia che tiene, contiene metà metformina, metà di un'altra sostanza che non so cosa sia. Praticamente me l'hanno sostituita, capito? A me la metformina mi ha fatto male invece. E ha già detto, vabbè, mi faccio l'insulina, dottore. E stavo facendo l'insulina perché questa pastiglia mi faceva male. E cosa ti faceva? Accussi? Azzugna, dolore di banza, accussi, di tutto mi pazzia, vai, vai, non è meglio. Non le sto pigliando perché mi ha fatto male, dottore. Dopo è passato un po' col tempo e mi ha dato un'altra. Chissà non mi pazzi nulla ed è una bomba. Perché la metformina fa male a diverse cose, poi ci sono controindicazioni che fa proprio così, a mal di pancia, diarrea, eccetera, eccetera. Male mi aveva fatto. Io mi sono informata subito in farmacia. Ma era quella che mi faceva. Era quella. Giudito, no, non è meglio più. E allora mi facevo l'insulina. E ne facevo 4 al giorno di insulina. Vabbè che erano pochissime unità, perché a me più di quel tanto non mi sale e quindi mi va di 4, mi va di chissà veloce, mi va di. Se te le volevo anche togliere, fatti. Allora, me le ha tolte 3 insuline. Sì, ma voleva toglierti anche quella della nota, per non darmi altra pastiglia, quella della nota è meglio che la piglia, ha detto. Infatti. Da voi 6 unità cosa so? Niente, di chissà lenta, confronta chissà che pigli due, l'altro chi sono diabetici voti, chi subito durata un bel, a me no, non mi sale così la glicemia. Se mi ha detto lì bisogno di insulina non ne ha, mi ha detto. Ma perché se all'inizio, all'inizio prendevo 2 pastiglie e basta. Poi ha cominciato a salirmi, alla fine mi ha dato l'insulina. Vedi, a me non. Io non viaggio grave come te la vulcera. Poi a me mi è venuta per questa pancreatite che mi è venuto il diabete. Se no io non ne avevo mai. Perché vabbè già stavo a dieta, perché io ero predisposto, lo sapevo, da mamma, da nonna, nonno, tutti diabetici erano. E cazzo, e allora giudizio che mi viene la, come si chiama, la, mi viene il diabete, ho detto. E allora stavo attento a quello che mangiavo, da Rubani mi negava pure la mollica addirittura, però a me non mi piaceva la mollica di Rubani, ne agavavo sempre. Quindi se io mi mangiavo un panino, è come se mi ne mangiavo mezzo. Inteso la Giaghi? Sì, già l'ho sentito, si mai propagazione. Io lo so. Mi sono seduto perché con il cazzo stavo, mi faceva male ancora di più. Sì, abbiamo un casino, quando uno va a ridurre così, Gesù Cristo mio. Non si augura manco al peggior nemico, guarda. Infatti. E se no, visto che tu passato io, manco al peggior nemico si augura. Cazzo, so che vivo a miracolo già. Si potevo rimettere le penne. Con la pacca di tite non si va a scherzare. Infatti non me l'ha detto zia Iole. Ho già di subito alla golicistica, o sai ti venga un altro attacco di pancreatite, riboneri bene, mi ha detto. Non ti trascurare, mi ha detto. E infatti subito mi sono occupato a operare. Proprio bagisso. A chi lo dimentica mi ne veniva un altro d'attacco. Ui, era biglivona. Deve essere una cosa dolorosa anche quella. Dolori allucinanti. Guarda, sono vivo per miracolo già. Sono stato una settimana che non mangiavo nulla. Non mi hanno dato niente a mangiare, assolutamente. All'ospedale. Una settimana. Su Ruela e Bu. Ti avranno nutrito con quei pattoni che danno tipo flebo così? Ah no, nulla, non potevo mangiare niente, è una cosa grave, mi la pancreatite. Guai! Sono morti anche i giovani con la pancreatite. Nulla, non mi da viene nulla a mangiare. Ma io una fame che l'ho gribato di riguarda. Mamma mia! Se mi sei la bilente la respirazione, i pirari. Non posso immaginare. Tu lo sai cos'è il brutto, che non ci può venire nessuno a trovarti, è un casino. Manco mia moglie poteva entrare, nessuno. Si fermava, era Ianna, zuccava, esce l'infermiera, era zia la roba e se ne doveva durranda. Così era lì. Non potevano entrare nessuno. Cazzo. Mi sono dicendo che sono già passato io, manca Riccani, e da poi quando mi hanno dato la prima via a magna, brodino mio, se ti credi che puoi magna, roba che non ti fa chiamare, a chi se no guai, ma lei che erano i dolori di mucchi. È roba liquida, là. E allora, brodino, da voi mi abbiano acciappato una glicemia alta, a 200 me l'abbiano acciappata, cazzo. Lei è diabetico e allora ma, quando sono uscito ho dovuto fare voglia andare al diabetologo. Cazzo, ne sono uscito già diabetico da ripilare. Ma con tutti i diabetici che ci sono non c'è un reparto di diabetologia all'ospedale, ma te l'immagini? Purtroppo è così. E mi hanno mandato al diabetologo, mi hanno mandato, e ora ci sono a Rizzetto, ci sono. Prima era a Rubalazzo Rosa, ora invece quando dai figli a Rizzetto. E io non vado lì lo stesso, la lì. La palazzina H mi pare che sia. No, palazzina H mi pare che sia. CH. E allora, Gesù Cristo mio, dolore di molti so. Lì, ma all'ospedale hanno incubato tutto, che mi hanno fatto sia la DAC che la risonanza magnetica, e da lì hanno scoperto tutto. È una brutta scoperta quella lì. Io all'inizio l'avevo presa male, poi ho detto vabbè, bisogna conviverci, pazienza. A me proprio il bagaglio a pancreatite, che il pancreas non funziona più, mi è giunto il diabete. E se no io non avevo mai, mangiavo di tutto, logicamente controllato, perché io ero predisposto, temevo e non me ne è venita, prima di venirmi quella pancreatite non avevo, a chi ogni tanto mi la misuravo io, va via la macchinetta di mamma, va via, e me la misuravo ogni tanto, per vedere, e non avevo mai fatto la curva di carico, pure avevo fatto e non ne avevo, cavolo, perché io ero predisposto. E quindi non mi fidavo. E infatti finse a venire, mi dice, pancreatite non avevo io diabete. Se mi pigliavo un caffè con lo zucchero, attiramente. Sì, ma tu avevi l'altra disposizione, che avevo tutti questi parenti, capito, col diabete. Eri predisposto, come me, mia madre era diabetica, miei nonni no, ma mia madre sì. Quindi la predisposizione ce l'avevo, io facevo ogni anno, facevo la curva da carico per prevenzione, capito? E poi me l'ha trovato il medico del lavoro, non ho mai avuto nulla, la curva da carico andava sempre bene, poi il medico del lavoro mi ha fatto le analisi, me l'ha trovata il medico del lavoro. E a un certo punto diveni, faccia pane a glicemia, e allora di mandarmi dal diabetologo. È così. Quando uno è predisposto, ma rasuti. E rubigliolo di cosa? Di, come si chiama? Della ex di Maria mio fratello. Quello lì ha 18 anni, io la via Guidamara. Cazzo, senza esumare, se l'hanno buttato all'ospedale e ne è uscito con 4 insuline. Cazzo. E so che dovuto fare io a imparare a fare le divisioni e tutto quanto, ai subizzino. 18 anni ci aveva poverino, quello piccolino basso, che ci aveva 18 anni. Chi sono ne ci già con chi sa giovanile, con chi sa veami. Già me lo ricordo che me l'ha detto che è andato il figlio di Maria Franco. E siccome io le sapevo fare sia con la siringa che con la penna, perché dopo gli avevano ordinato la penna a mamma e gliele facevo io le iniezioni, perché mamma era cieca, no? Aveva perso la vista, aveva avuto il distacco della retina, no? E mi ripazio io, e allora sono andato a impararlo a Maria Franca a farle e poi anche a lui, perché se non vede Maria Franca si doveva fare Edu, però prima le ho insegnate a Maria Franca a fargliele. Quando c'erano da piccoli ancora peggio, perché soffrono di più, gli altri bambini mangiano le caramelle, cose. Ci sono bambini che c'erano proprio da piccolini a piccolini, addirittura a questa amica mia dall'asilo l'hanno scartato il bambino perché a quell'ora doveva fare l'insulina e doveva andare sempre la madre, perché sennò loro non si hanno preso la briga di fare l'insulina, capito? Lo volevano mandare via addirittura. Loro non è la briga, la responsabilità c'è anche. Non se la prendo, non ho la responsabilità. E infatti quando mi ha telefonato mio fratello, cazzo, Natali curri a farà polso d'orra, chi l'ubizzino sente sumari e varo diabete, e lo devi mi dimetti, così rimpari a Maria Franca come ci si fa, chi c'ha cosa. E allora sono dovuto curri a polso d'orra e impararli tutto. Come ci si misurava la cosa, la glicemia e come si facevano le iniezioni. Già rubrido, poveraccio subizzino, a 18 anni avere il diabete, una prigione. Sì, no, 18 anni sono già tanti, io conosco bambini piccoli che vanno all'asilo, capito? Che ce l'hanno già da piccolini. Quello lì è diabete tipo 1, ancora peggiore. Ehi, Gisumaro, anche lo diabete tipo 1. Non è Gisù tipo 2 che abbiamo noi, quello l'alimentazione, il nostro è. Si chiama diabete di vecchiaia, si chiama, perché è dall'alimentazione che viene. Mara Giusti. E già lo so, bambini piccolini che hanno il diabete, è una prigione, che vita fai così? Pare così che non agi nuda, ma ti greba tutti le cose, tutti gli organi vitali, ti ammazza. Il diabete non c'è altra cosa. E si sono tutti i baci che ti hai mangiato. Ciao Natalino, ciao Gianni. Ciao Salve, ben sentito. Non è così, sai, è che quando c'hai anche i genitori che magari sono diabetici, sei predisposto, capito? Già lo so come funziona. Io ho mia madre che da qualche anno prende la pastiglietta, ma roba tranquilla, là. E allora controlla già di burundumi. A chi non vede nessuna, sai? E anche nel mangiare controllati, come gli è venuta da grande a mamma tua. E allora, da poco, io l'hanno riscontrato qualche anno fa, la mia madre è grande, mio va, E controllati pure tu, ogni tanto fatti misurare la glicemia, non ti fidà. E stai attento a quello che mangi. Perché guarda, io c'avevo mia nonna, mio nonno, mamma, tutti diabetici, e io ero predisposto. Allora giù di un due mi ha giocato la gruva da carico, ogni tanto mi misuravo la glicemia e non avevo mai a stare attento a chi si mangiavo, no? Non facevi i travisi nel romagnano. E non ne avevo mai. Ho avuto la pancreatite e ne sono vicino via diabetico da rifilare. Ho capito, no, grazie a Dio non c'ho nessuno in famiglia che ha diabete. Mamma da un paio d'anni, mamma c'ha diversi disturbi, gli manca un rene, c'ha diversi disturbi, adesso gli è venuto anche questo diabete, prende una pastiglietta, ma niente di grave. E così si inizia con la pastiglietta. Comunque non ti fidare neanche tu, non fare strabizi a mangiare roba grassa, compreso? Perché ti può venire. Io non lo auguro manca ai cani, anche una brigione. Io lo so, e ne ho amici che fanno 4 insulini al giorno. Non è bello, proprio bannuta, lui. E infatti io non facevo 4 insuline lo stesso al giorno, adesso ne faccio una solo, quella della notte, perché me le ha tolte. Però io sono agli inizi, a me non mi sale un bel mi. E piglio una bacchiglia e un'insulina la notte mi posso. Ma pochi unidai, la cosa non mazza a me assai mi. Ho capito, capito. Ah, vi sto ascoltando, sono qua in ascolto, riprendi già. Fra poco chiudo anch'io, dai, che devo andare a fare la mangiare al cane. Salve. E roba, non sai cos'è brutto, che ti fanno fare un bel di visite, devi stare sempre andando a fare visite dall'oculista, da questo, dall'altro, sempre per tenerti sotto controllo, e in effetti è una cosa necessaria, però la rottura di palle che devi stare a prendere appuntamenti, e là a fare analisi, questo e quell'altro, paccare da virus. E a me ma te se non mi manda dall'oculista, da tutto, cazzo. Allora, a dicembre non devo fare un capolo, solo le analisi del sangue e le urine, boh. Però alla favoccia mi toccherà a fare tutti i controlli. No, io a febbraio devo fare quella delle 24 ore, le 24 ore e cose, e l'analisi del sangue, boh. Ecco. Ma vabbè. Allora, a dicembre quando devo andare forzo di su, immaginando e buh. Io le ho fatte da poco tutte le visite, capito? Oculista, cardiologo e via dicendo. Ho fatto anche l'eco con il Doppler. E a me lo stesso, mi manda a fare le visite quando una volta all'anno bisogna andarli. Non è poco di va. Mi fa una volta sì e una volta no, ogni 6 mesi mi manda. Grazie, che radio stai usando che stai uscendo bello pomposo? Cosa sai? Ho detto che radio stai usando che stai uscendo bello forte. Il Royce. Bello forte, il microfono cosa c'hai? La Static. Ok. K. Sì, vabbè, ma bene o male io esco con tutti abbastanza forte, dai. Anche Cobra esce forte. K. Certo che sì. A me piace il corso, l'S9, Magnum. Io c'ho il 980. Chi è avanti? Io, buonasera. Buonasera anche a te, chi è? Io, l'ho già detto, io. Ciao Gino, buonasera. Ciao Gino, buonasera anche a Natalino e anche a... mi sono iniziato il nome. Saverio. Ah, Saverio, un pizzaiolo. E io. Io non ti ho conosciuto, quindi ti chiamo io. Ciao, Eugenius. Eugenius, Eugenius. Allora, Giovanna lì, tutto a posto. Io, Savve, abbiamo parlato, abbiamo lavorato mille volte assieme. Eugenio è il produttore. Io solo, l'unico e solo. Dici, l'unico e inimitabile. Scusate un attimo. Ehi, la mare. E prendi Natale. Ehi, sono qui. Tutto per voi. Ah, se dice così, se si fa con la scorsa guai. Minimo mi dice che si sono peloso. Ah, caro. Tanto ha fatto la storia Falcone, sempre lo ricordiamo. Quello è poco ma sicuro. Già là arrivato in Milano era bovaraccio, eh. A me mi faceva pena quando facevano quelle cose. E allora, io lo difendevo sempre, poverino, però una volta ha sgarrato con me. Cazzo, io lo difendivo. E una volta stavo parlando con Adriano, quell'amico mio che abitava lì in via Sorso, abitava, te lo ricordi? Si chiamava Adriano Lando. Come non me lo ricordo Adriano, certo che me lo ricordo. Ehi, e stavo parlando con lui, ero in questo con Adriano, e ne è Dusecco, Adriano, non ci parlare con quello che è froscio. Oh, ciao Memmi, cazzo, ma ti devo immaginare, ero di fin di io, a giù briato pure con un coso, con Piero Drago avevo bisticciato, perché lo faceva tirare troppo, Piero lo faceva, ha detto cazzo che ci divenne un infarto, riveni, perché una volta era proprio fuori dalle grazie di Dio, era furioso mi Falcone. Perché si nervosiva quando diceva di farsi un brodino di mamma, poi Piero era tutto tranquillo e lui si incazzava, io vai a farti un brodino di mamma e vai a quei cazzi, corri, che qua non ci fai niente, è brutto maleducato, che queste cose non si dicono, e lui si incazzava come una bella. Sì, mi vivi a bocca, figlio di bagaccio, ah così mi hai detto. Adesso scendo lì in regione Giuseppe Maria e ne scendo le mutande a Italia. Ma caimo, vi lo dizia. E io gli ho scelto le registrazioni. Sì, via. Certo, sì, era una cosa troppo rufa di arrabbiare. Una volta avevo avuto parole io con Piero. Io lo so che lui stava scherzando, però era furioso, cazzo. Falcone era furioso. Cazzaghiccio divenne, no, tra me e a giudizio, gli viene un infarto a questo. E non lo devi ne va a arrabbiare così. Una volta non voleva il mio portatile, quello 80 canali, c'avevo un Major 80 canali. Bello, c'aveva anche lo Smith, c'aveva l'attacco per il microfono davanti, usciva con 5 watt, c'aveva 80 canali per banda, e l'avevo pagato anche un pochino, lui mi ha detto, ascolta, se mi dai quello lì ti do un apparecchio bello, grande, e io sono andato a casa sua, vedo questo apparecchio che c'aveva, con bande laterali, eccetera, e poi era coricato nel letto, era già malato, mi ha detto, ascolti, mi deve scusare, ma mio figlio non sa quello che fa, perché se lui mi dà il portatile ne posso comprare 100.000 di portatili, ma se lui ha il portatile e va nella strada, non sta attento alle macchine, lo mettono sotto, quindi abbia pazienza, non può farlo questo cambio, abbia pazienza, detto, vabbè, non fa niente. Ehi, ci aveva paura perché Falcone non era sano, no, poverino, e cazzo... Ed era una cosa giusta, magari se ne andava in strada veramente col portatile e ti rubuti anni buoni pure sotto. Cara, vabbè, purtroppo, vabbè, quel Maio era un bel bello Natale, non è arrivato più baracchini così, era tutto un ferro pieno, con un'antenna lunga, cazzo parlavo con tutta Sassari, con l'antenna interna, che era bello proprio. Io me lo posso immaginare. Che era bello, ma il Malafalcone era un più vivo, aveva ragione tuo babbo. Ma sono vivo il falcone? Vabbè, non muto più. No, perché adesso vive con la sorella, mi pare, non vuole che vi diano gli appalti, che non volevo, lo volevamo fare una stazione, poveraccio, perché l'unico hobby che ci aveva era quello, se si distraeva con quello, adesso va a giocare le macchinette alla piazzetta. Che ride faceva? Faceva il finocchio in frequenza, voglio. A me mi diceva sempre, dai, dimmi che calze hai. Fammi sentire il pelo. Allora mi passava il microfono dove serve la barba. Cario. Ma non era sano? E beh, allora ogni mate c'è la sua fissazione, lui c'era quella del sesso, capito? E poi il sesso contrario le piacevano i maschi, specialmente se erano giovani, ragazzini, gli piaceva. Io una volta ero entrato facendo la voce di un altro e mi ha detto, come ti chiami? Io ho detto orgasmo, e andavo a tutti i cari a cercare, avete sentito orgasmo? Ma era grande di età, io l'ho sempre sentito in frequenza, ma di persona non l'ho mai visto. Ma morto è Falcone, perché? No. È vivo, deve essere in qualche spirito, qualche centro là. No, abita con la sorella nella sala di sorso, sai. Se tu non vuoi vedere, ma sai che va alla piazzetta dove ci sono le macchinette, sono sempre lì giocando con le macchinette. Chi? Lui con la sorella? Ma è grande di età. Io l'ho sempre sentito in frequenza, ma di voi dal vivo non l'ho mai visto. È la zia. È grande, io mi ricordo, ero un ragazzino, lui era già un bel grande. È grandetto Falcone, io ero un ragazzino, avevo 19-20 anni e lui era già grandetto. Gianni, c'è l'età tua. Cosa? Ha l'età tua. Ehi, c'è lui, se me lo ricordo Falcone. Ma votarà perché l'ho visto, non aveva nemmeno più radio. L'avevo incrociato e l'avevo salutato. Ah, Saverio, sì. Ciao, ciao Saverio. È più grande di me, fregatene, è più grande. Di un anno di più. Sì, ma questa privazione la faceva solo in frequenza o era veramente così? La faceva per vivo in frequenza? Se tu lo conoscevi dal vivo, bastava la testa, era vergognoso, non parlava, capito? Malato, era poverino, era. Oh, yeah. Due risate, ma giovato, negli anni 90. Ciao, Tony. Ciao, Sorrento. Antonio. Oi. Perché sei così basso di radio? Come devo essere, più alto. Questa cosa c'è che non va qua. Oh, c'è qualche fila che tocca, ma tocca. E adesso? Quanto le mecchi lì? Oh, io non so, cioè, arrivo al segnale, a 7, ma di radio non lo sento. È a posto qua già, non è che è Massimo. Segnale sì, forte, sei molto forte, ma la radio è un po' bassina. Con che apparecchio sei, Cla? È un baracchino vetro canale. È basso di radio, vabbè, comunque già ti ascoltiamo lo stesso, è basso basso. Io non lo ascolto, arriva il segnale ma la radio non arriva. Io sono abituato a sentire un bello pimpante. Avanti, Natalino. E io di radio invece lo sto uscendo già. Tu sei sempre a bomba e io ti sento sempre bene a te. Avarroggerò. E oggi tu non le ascolti? No, so di brutto, alla grande. Sempre alla grande. Io ti ascolto benissimo qua. Anche il segnale ottimo. Vabbè, ho le tue coordinate oggi. Porto Torres, ingresso di Porto Torres. Ah, positivo, vai. Tu qua c'è segnale 9 più 10, picchi positivi, radio 5, non ci sono problemi. Attenzione, binario 45esimo, sentite questa piccola chiamata che vi chiama dal Monte Rosello Alto, Capacapa, positivo, Cavaroce, fratello mio, Capacapa. Ciao Lucariello. Ciao. Eia, ciao Savvio, mi faccia lunga, senti qua questa piccola chiamata. Ebbene, amico mio di Porto Torres, come va? L'amico mio Sassarese, e allora lui, buongiorno, anzi buonasera. E tanto, chi mi ha salutato, chi è l'altro che mi ha salutato? Io ero io, perché? Ah, la voce è calda, senti una voce è calda. Ah, sì, tu ciao già. E infatti sono due più la voce calda della frequenza. E infatti, va. Duro duro mi si è fatto. Il pane. Perché stavo parlando di Falcone, Gianni gli è diventata la voce calda. No, no, a me i maschi non mi attirano. Non lo so a voi, ma a me no. Tony, avanti. E allora, che si dice? E cosa ti diciamo lui? Diciamo che sono sotto a duori e mi dovevano operare domani, invece mi hanno messo in riserva. Adesso devo aspettare la prossima volta. Anche a me devono fare l'operazione. Un anno e mezzo mi devo aspettare. passo la pista il 9, sei al Conti, vediamo un po', io te lo dico, non posso stare a spendere soldi, prima di tutto per spendere i soldi, con questo spray che mi date, anche se mi aiuta, mettetemi in lista e mi operate, così, adesso ho sempre mal di testa, sto respirando male, molte volte vado in apnea anche già, un casino. E la cosa dipende? E i polipi già. Poi c'ho la, ho detto l'attacco, adesso non mi ricordo, c'ho il foglio, e dovrò essere operato. Beh, questi polipi vogliono tutti, beh, normale. Torino, ci sei? Torino, se c'è il polipi te li levo io, me ne vanno a 15 euro al chilo. Vabbè, già non ce l'aveva giù mano, ma e poi i sono minoretti. Scappa, vabbè. Sono cose da fare. Purtroppo, man mano che si va avanti con gli anni, dobbiamo tappare. Eugenio, che ne dici tu? Che sta già di già? Che sta già di? Sta giù fammi. No, io mi ho mangiato... mi vergogno a dirlo, ho fatto la pasta al forno. Era avanzato un pezzo. La merenda mi sono mangiato il pezzo di pasta al forno, ma non c'ero però, Oh, Eugenio, come mi stai ascoltando, produttore? Bene? Cos'è lui? Scusa, ero distratto, dimmi. Ho detto, come mi stai ascoltando, produttore? Bene? Come sempre lui, favoloso. Andava, dai, andate a posto, ci avete. Stasera già un attimo. Va bene, dai. E beh, salve. Ogni tanto ti fai sentire pure tu, dai. È lunedì e oggi, non sto lavorando. Sono qua davanti al mobile della radio, sto facendo cose e quindi sono in ascolto, sono già da un paio d'ore. Prima ero sul 30, poi ero sui canali alti, poi c'era un po' di propagazione anche nel 45. Cosa? E adesso già da un'oretta sono qua. Li sto ascoltando, stavo ascoltando a Gianni Natalino, dopo sono entrato a salutarli, tutto qua. E beh già, adesso? Adesso va meglio, alla grande. Prova Tony. 1, 2, 3, prova di modulazione. Dal giorno alla notte, che apparecchio è questo? Questo è il presidente. Lo vedi a Tonino, vado in tempo. Buonasera Tonino. Ciao G, se te conosco tu picchi positivi 9-10. Tu a mia parte hai lo stesso segnale di Luca e di Coso, di Saverio. Sei a 9 praticamente. Già vabbè, adesso ci sento bene già. Ho spostato l'antenna a 3 metri fuori da dove era prima, e quindi a quanto pare va bene. Ma comunque se sollevo altre 3 metri già va bene ancora. Diventa 9 metri. Avanti Gianni. Sì, questa radio è più presente, tu li dici che non fare. Quello è sicuramente il microfono che ti fa uscire basso, boh. È un microfono normale, ho un 23 canali, ma è bellino, è un bel vicio, Ho provato a farlo sfondare un pochettino già. Ma magari mettendo un amplificato va meglio, capito? No, mette dubbio. E allora, Savi? Allora, tu. Aiù, che devo fare pulizia qua. Un po' di apparati, un po' di vici vici, scuotende. Oh, qua io se mi faccio entrare un apparato non entra solo uno grosso e buh, non entrano altri. I 9,80. No, va bene anche a 4,40. Perché l'S9 non ti piace? Hai detto che ti piaceva. Il 9,80 è diciamo, il modello più nuovo dell'S9. Migliorato perché l'S9 aveva dei difetti di frequenzimetro, invece il 9,80 non ce li ha. Ho capito già, mi piacciono tante radio. L'S9 mi è sempre piaciuto, anche quello che c'è tu è bellissimo, però per come baracchino stiamo parlando, ma dove non fare la spesa vorrei fare prendere un apparecchio come ci si docca, capito? Non l'ho mai avuto e mi farebbe piacere averlo, tutto qua. Infatti il mio. Ah, ce ne sono, beh, ci sono 140, ma non lo voglio 140, capito? È oggi. Perché non lo vuoi, sai? Il 140 va bene. A me all'inizio io volevo il 440. Poi non ho fatto vedere il 140 e mi sono innamorato, davvero. Ma il 440 fa quel difetto del display. Invece il 140 non ha difetti, capito? Ma mica il 140 a fin fine è un baracchino professionale, ok, perché fa 0,30. E perché il 440 quanto fa? La stessa cosa, il 440 è uguale. Ma, vabbè, comunque, Io ne ho avuto 3 di 140. Come già? Io ne ho avuto 3 di 140, li ho tutti venduti, ma non me ne sono mai più una cosa. Ci ho avuti anche con le Messi 60, nuovi, io le ho fatto arrivare uno da fuori, al continente, che c'era questo tipo che vendeva parecchi, roba del genere, metto che doveva andare alla fine, ho detto qua c'è 340 nuovo, però l'ho messo male, me lo controlli e poi mi dici quanto ti devo dare. Ma era tutto, perché lui che aveva la Kenwood, aggiustava la palatti Kenwood, capito? L'ha controllato, ha detto che non c'aveva una bici garuda, era nuovo, ho detto mandamelo subito, e me l'ha mandato, capito? L'ha pagato 250 euro. Andiamo a fare. E mi ha detto che c'aveva anche le bici 60, però dice conoscendoti è un po' consumato, ho detto no, non lo voglio consumato, domandamelo nuovo, l'ho pagato 170 euro le bici 60 nuovo, era tutto perfetto, cazzo, poi l'ho venduto e me ne sono pentito. MC 60, è nuovo, sembra che stia uscendo dal negozio. Avanti a chi tocca, Tattalino, avanti. E Tattalino non si sente più. Ce n'è uno in vendita, 200 euro di 140, però dice che bisogna farlo scaldare per qualche minuto, perché appena lo accendi in qualche frequenza rimane leggermente spostato, con appena che scalda bue è perfetto dappertutto, sia in ricezione che in trasmissione. 200 euro lo stanno vendendo. E allora non dice, più scalda più cammina. Questo è perfetto, il mio è perfetto. Comunque dai, non stavo scherzando, non sto vendendo. Comunque questo microfono è MC60, nuovo, come da negozio. Lo stai vendendo oggi? No, non do niente, no. Infatti poi me ne sento, me lo devo comprare, no. Sto scherzando. Il viaggio rimane in Olga, non richiede niente. Ma infatti, almeno che tu voglia passare a un apparecchio superiore, capito? Ma se voglio passare a un apparecchio superiore me lo compro e basta, e questo comunque rimane qua. Infatti, avanti, avanti, prendi. Comunque inoltre, comprare la macchina, mangio un casino io, un bel canale. 3 canali, 40 canali, 80 canali, 270 canali, insomma c'è bisogno di dire, fa vendimi, non lo penso, abbiamo un canale, ma che canale non ve nessuno, è troppo che propagazione. Quando l'ho acceso c'era la Francia, che se arrivi a Santiago 9 dice, ricca, che bravo. Comunque, sì, sono bene i baracchini, hanno tanto di quella roba, il Kenwood, però ripeto, sempre con le frequenze usi, cosa ne fai? Dice sì, ma almeno ne ho uno bello e buono, non metto in dubbio. Domani mi piace il compra, ho già. Va bene, scusate signori, io vado a masticare. Ci sentiamo alle prossime, mi ha fatto piacere risentirvi a tutti. Ciao e buonanotte a tutti, ciao. Ciao Gini, ciao, ci sentiamo, buona carica quando la fai. Ciao Gino, buona carica, ci sentiamo. Ciao a tutti, ciao, passate buonanotte, ciao. Ciao, Savidio. Ehi, chi è che sta andando via? Eugenio, che stavo parlando in verticale qua con la 50. Sì, Eugenio, ha fatto corretti per caso a carica. Ciao Eugenio, ci sentiamo alle prossime. Buon proseguo di serata. Avanti a chi tocca. E la persona nessuno lo prendo io. Eh sì, così. Quando ne hai tutti gli apparecchi qua, ne bastano due, di solito due si tengono, perché se magari si rompe uno c'è l'altro. Però non di più, capito? Quando sono tanti gli apparecchi, poi non sai cosa fartene, fanno tutti la stessa cosa, poi. Guarda, io, questo Ruiz è un bel comodo, c'ha il cavo lungo delle cose, mi posso girare anche nel letto e tutto quanto. E poi che bene come apparecchio. Lo stavo vendendo, ma poi ci ho ripensato, dai. E io, guarda, ieri già, mi sono piazzato l'antenna VHF. Adesso dove si prende solo un piede, pensavo di averlo e ce l'ho, tutto fatto, sono l'antenna, il piede, tolto il cavo per il ricevitore, però mi manca proprio il PL e un marinotto per andare bene. Ah, cazzo. E vedi tu adesso con l'antenna VHF ti puoi prendere anche un Kenwood, un 140 o 480. No, già, non mi interessa. Ne ho troppe baracchine, poi cosa faccio? Lascio così qua, se riesco a darle via è un conto. Ma per gli anni altri no. Se me ne tengo quasi tutti, me ne tengo 3 soltanto. Il Galaxy, il Presidente, è quello Daytona, come cavolo si chiama. Boh, non ti dà che le do, ormai non fatti nulla, è il ricevitore. Allora potrei farci un pensierino, se no no. Ma se tu li vedi tutti in blocco non te li compra, li pigli a uno a uno, li vedi e ci guadagni anche di più. Me da uno a uno la metto su un coso. Vediamo, tanto quelli li hanno già venduto, quindi. Cavagaba, vabbè dai, piano piano già riesci a venderli tutti. Se tu vi collezioni se te li prende pure tutti quanti, poi magari se ci vedi qualcuno che è interessato, li propone anche gli altri, magari vi mettete d'accordo.